Lanfranco Bini che ci ha garantito che sorgerà il tutto nel giro di 7 minuti e 35 secondi. Molto meno. Molto meno, molto meno. Lo fa. No, ti do il microfono. Sì. Grazie. Ci ricorderemo a lungo di questo convegno perché è stato, posso dire, perché si sta concludendo, un incontro multidimensionale, cioè a 2, 3, 4, 10 dimensioni, collegando delle esperienze, dei linguaggi diversi e soprattutto collegando presente e passato, un passato che è tutt'altro che da rimuovere e che invece è da recuperare criticamente, è il passato del movimento operaio, del movimento operaio e contadino, di cui appunto era studioso e ricercatore Gianni Bosio, che qui ci ha riuniti. Allora è formidabile, che è un segno dei tempi importante di questo momento, che sia stato così facile collegare la lezione di metodo di Gianni Bosio, l'attenzione alle culture delle classi subalterne e i social forum e nuove culture che non hanno come riferimento modelli totali come aveva il movimento operaio, ma culture aperte, di rete, con una centralità alle persone. Chi come me ha avuto esperienze politiche nel movimento della sinistra, insomma, si ricorda bene che intorno agli anni 70 un intellettuale come Gianni Bosio era inevitabilmente eretico e scomodo. Danilo Montaldi era scomodo, Renato Panzieri era scomodo, cioè tutta un'ala del pensiero critico della sinistra in realtà si urtava contro dei blocchi monolitici di apparati di partito che erano il nostro limite. Per questo abbiamo perso in una fase, in una fase della storia, non si perde mai, la storia continua. La storia del movimento operaio è cominciata appena a metà dell'Ottocento, figuriamoci, 7 generazioni fa, e che è? È ieri l'altro. Però è importante rielaborare criticamente tutto quello che deve far parte del nostro presente e del futuro, per non perdere nulla e per rivitalizzare, per riuscire a unire pensiero critico e pratica sociale. Quello che ci dice l'esperienza dei cosiddetti social forum, il movimento dei movimenti, come è stato definito ieri da Ivan Dagnoletto, ci dice che siamo in una fase di ripresa di movimenti dal basso, con un protagonismo nuovo delle donne, degli uomini. A Genova, lo ricordava Zullo, c'era una grandissima presenza di giovani e all'interno dei giovani c'era una grandissima prevalenza di donne. Sono dei dati straordinari da un punto di vista sociale, politico. Cioè quelle ragazze giovani che non hanno condiviso col femminismo diciamo delle nostre coetanee, le femministe quarantenni, cinquantenni, insomma, non hanno condiviso percorsi, riescono oggi a proporre una concezione della società a misura di diritti di cittadinanza con modelli non androcentrici e accettati. Allora, siamo in un momento di grande cambiamento. Porto Franco è uno strumento, è una cosa strana, è un progetto regionale promosso e coordinato dalla Regione Toscana, è un progetto di rete, nel senso che Porto Franco produce reti istituzionali e di società civile, mettendo a lavorare insieme istituzioni e associazioni, e questo è il dato interessante di questa storia. Reti orizzontali, policentriche, in cui non c'è un ente più importante di un altro, in cui c'è però la regione, cioè il governo regionale, le province, 120 comuni attivi e l'arcipelago dell'associazionismo in tutte le sue forme. con un patto costitutivo all'inizio di Porto Franco, cioè del reciproco riconoscimento e del reciproco ascolto. E è per questo che a distanza di 2 anni dall'inizio di questo progetto, oggi Porto Franco esiste e può contribuire attivamente a che cosa? A un processo che è l'obiettivo vero di operazioni di questo tipo, che è l'elaborazione di un modello toscano di sviluppo umano. L'obiettivo su cui stanno ragionando i ragazzi dei Social Forum, nel pianeta, da Marcos a appunto Turenne in Francia o cose del genere, o i movimenti, è questo, cioè che tipo di società vogliamo, in modo che le persone siano centrali, i diritti di cittadinanza siano garantiti a tutti e tutti abbiano diritto a essere diversi. Allora, questo tipo di società va costruita completamente, non abbiamo modelli di riferimento, però siamo all'interno di un processo di questo tipo. La scelta di fondo è finalizzare lo sviluppo economico allo sviluppo delle persone e non viceversa, finalizzare le persone allo sviluppo economico. È una scelta importante, la Toscana la sta facendo, la Toscana come appunto insieme di istituzioni e società civile. La ragione per cui la regione toscana ha promosso un incontro a San Rossore il 18 luglio alla vigilia della giornata di Genova, un incontro di colloquio, dialogo e ascolto fra regione e movimenti, è questa, e siamo all'interno di una fase di laboratorio. Allora, io non mi dilungo di più, perché sulle ragioni e sulla cultura interculturale di Porto Franco hanno parlato a lungo tutti, nel senso che implicitamente le cose dette da Papp, le cose dette da Mercedes, che tra l'altro appunto sono persone tutte molto attive dentro questa fase, insomma, della società toscana, sono i temi di Porto Franco. Vorrei però farvi una proposta. Vorrei proporre che quanto ci siamo scambiati in questo convegno venisse condiviso all'esterno, venisse portato in particolare alla stazione Leopolda, dove sono riuniti i Social Forum, con una piccola proposta di punti che vi leggo. La leggo nella forma in cui l'ho buttata giù, ci sono poi già delle correzioni proposte da Bruno Cartosio e da Cesare Bermani, però le vediamo dopo se sostanzialmente siamo d'accordo su fare una cosa di questo tipo. C'è un sopratitolo in gergo giornalistico, si chiama Occhiello, e questo Occhiello dice: proletari di tutto il mondo, parliamoci. Il titolo è Adesso parlo io. C'è poi un corsivo che spiega di che si tratta. Risoluzione approvata in conclusione del convegno ieri posi oggi, promosso dall'Istituto Ernesto De Martino con la collaborazione del Comune di Sesto Fiorentino e della Regione Toscana Porto Franco. Sono 5 punti. 1. A 30 anni dalla morte di Gianni Bosio, intellettuale rovesciato, è il titolo di una sua opera importante che abbiamo presente, maestro di ricerca sulle culture altre del movimento operaio e contadino in Italia, sperimentatore del metodo dell'ascolto dei punti di vista, delle esperienze, dei linguaggi delle classi subalterne, noi che con lui abbiamo condiviso una lunga e feconda stagione di produzione e organizzazione culturale per cambiare la vita e trasformare il mondo, consegniamo alla riflessione dell'Assemblea Generale dei Social Forum, riunita alla stazione Leopolda di Firenze nei giorni 20-21 ottobre, queste nostre considerazioni. 2. La risoluzione finale del Campus della Storia e della Memoria, che, coordinato dall'Istituto Ernesto De Martino, si svolse fra il 24 e il 29 luglio 2000, nell'ambito del progetto regionale Porto Franco, iniziava con questa affermazione: quel fenomeno cui oggi viene abitualmente dato il nome di globalizzazione e che potrebbe definirsi mondializzazione neoliberista. Si identifica con l'accelerazione dei processi di trasformazione produttiva e sociale e con l'allargamento a livello mondiale dell'egemonia esercitata dal sistema finanziario, economico, produttivo e sociale del capitalismo, incentrato in una porzione limitata del globo, parte dell'Europa, Nord America, Giappone, Australia. Effetti diffusi di tale egemonia sono stati negli anni recenti l'accrescimento delle distanze tra ricchi e poveri nei paesi ricchi, della distanza tra paesi poveri e paesi ricchi e la riapertura di conflittualità sociale e politica in molte aree. Chiusa la citazione. Questa accelerazione sta oggi assumendo le forme del terrorismo diffuso e della guerra senza confini per il dominio delle risorse energetiche del pianeta, con tutti gli effetti che ne conseguono. 3. La risoluzione finale del luglio 2000 insisteva quindi sulla nuova realtà del multiculturalismo come effetto delle migrazioni provocate dalla globalizzazione capitalistica, al quale rispondere con lo sviluppo di strategie interculturali attive, fondate sul pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza per tutte e tutti, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla provenienza. La nuova legge sull'immigrazione, che l'attuale governo italiano è determinato ad attuare, persegue obiettivi opposti di esclusione e criminalizzazione dei migranti. 4. Il movimento dei movimenti, fra virgolette, che si sta sviluppando in forme organizzative che assegnano una nuova centralità alle persone, alle esperienze, ai linguaggi e alle competenze, con l'obiettivo di costruire dal basso e trasversalmente alle organizzazioni sociali nuove esperienze di partecipazione democratica alle decisioni sul presente e sul futuro dei territori e del pianeta, costituisce l'alternativa alla globalizzazione dei profitti, del terrorismo e della guerra. Un altro mondo è possibile, necessario e in costruzione. 5. In questa fase, le pratiche della ricerca sociale sul campo e della produzione di conoscenze e saperi in una prospettiva interculturale diventano più che mai centrali per nutrire di memoria consapevole e di pensiero critico i processi di costruzione di relazioni sociali a misura di diritti di cittadinanza. La storia e la memoria, da sempre terreno di conflitto e di lotta tra poteri, devono diventare il luogo comune nel quale si incontrino i percorsi plurali di una nuova internazionale del genere umano, nel quale si incontrino nel nostro paese i percorsi e le esperienze delle classi subalterne, dei nuovi proletari autoctoni e migranti, delle donne, degli uomini, degli anziani e dei giovani. Una delle caratteristiche delle persone, scrivemmo nella risoluzione finale del luglio 2000, è di avere esperienze e memorie, attraverso le quali entrano socialmente in contatto con le esperienze e memorie degli altri. La memoria è una pratica in divenire e riguarda tanto il passato lontano quanto l'immediato passato, individuale e collettivo, che le persone si costruiscono ogni giorno attraverso le loro esperienze. Chiusa la citazione, le ultime tre righe. Alla storia del dominio dei potenti e alla rimozione della memoria delle loro vittime, opponiamo la storia e la memoria delle persone concrete, complesse, multidimensionali, ricche della propria diversità. Ognuno dica adesso parlo io. C'è un'indicazione di data e di località dal luogo comune dell'Unione Operaia di Colonnata, Sesto Fiorentino, Toscana, Terra dei Popoli e delle Culture, 20 ottobre 2001. Io vi propongo questo perché dobbiamo, in una logica di rete, condividere quello che capiamo e se abbiamo da proporre, in occasione del convegno su Gianni Bosio, la riflessione su quel metodo e l'utilità di quel tipo di esperienza per il pensiero critico che si sta sviluppando nei mondi, allora dobbiamo farlo. E visto che appunto a pochi chilometri da qui, a Firenze, c'è un laboratorio di persone giovani e attente e interessate a capire come funziona il mondo, probabilmente ha senso dare un contributo di questo tipo.